La fiamma ha una temperatura iniziale di 300 gradi e cresce di 200 gradi al secondo. Quanti secondi servono per raggiungere una temperatura che permetta di far bruciare i rami a 1100 gradi, senza incenerirli a 1300 gradi?